GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Razzismo al Friuli, gli ultras coinvolti potrebbero essere diversi, attesa per il pronunciamento del giudice sportivo. Frutta e tessili sulle navi della nuova rotta commerciale tra Trieste e l'Egitto, presentata nel capoluogo regionale. Etichette e formati irregolari, più di 1500 bottiglie di birra sequestrate in tre negozi del Pordenonese. Nuove pietre d'inciampo posate a Pordenone e per la prima volta l'iniziativa arriva da una scuola. Combattere la violenza ostetrica parte da Udine il programma di contrasto alle pratiche irrispettose delle partorienti. Da Cividale alla portaerei Cavour, la carriera del capitano di vascello Milo Sargenton sulla maggiore unità della Marina. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Proseguono le indagini sulla partita di sabato sera al Friuli dopo le frasi e i cori razzisti nei confronti del portiere del Milan. Stiamo vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza e non solo quelle dello stadio Friuli, ma non abbiamo ancora in mano i dati oggettivi che ci portino all'individuazione dei responsabili degli insulti e atteggiamenti razzisti di sabato sera nei confronti del portiere del Milan, e non è detto che siano solo altri due. Stiamo lavorando. Così il questore di Udine Alfredo D'Agostino, che lunedì sera ha colto però un primo risultato con l'individuazione, la denuncia e un DASPO di 5 anni nei confronti di un 46enne friulano, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che avrebbe urlato per una dozzina di volte espressioni razziste nei confronti di Mike Maignan, che gli sono valse anche l'interdizione perpetua da parte della società dallo stadio Friuli. L'uomo non è però tra quelli che con le loro parole e atteggiamenti hanno causato il risentimento del portiere del Milan e lo stop alla gara. Il video che ha permesso la sua identificazione coincide con il gol di Samardžić, quindi a partita ripresa. La sua posizione è compendiata in un'informativa che la questura già ha inviato alla Procura della Repubblica di Udine. Si sta però ancora lavorando a un report complessivo sull'accaduto, particolare che potrebbe condizionare la decisione del giudice sportivo attesa in giornata, sentenza che potrebbe slittare per l'Udinese con un supplemento di indagini. Udinese Calcio confida nel fatto che le persone coinvolte potrebbero essere poche, non organizzate, che da parte della società ci sia stata da subito la piena collaborazione per individuare i colpevoli. Sull'accaduto, con un'intervista, è tornato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che alla Gazzetta ha detto che quanto accaduto deve farci riflettere sulla necessità di rendere ancora più efficaci le sanzioni per colpire i singoli responsabili. Vanno individuati strumenti che, oltre alla chiusura degli stadi e delle curve, rendano ancora più incisiva la risposta dello Stato verso gli autori di questi gesti. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sindaci, autorità di bacino, comitati e associazioni, in quarta commissione del Consiglio regionale a Trieste si è parlato di messa in sicurezza del tagliamento. Sentiamo quali sono le modifiche tecniche al piano. Il piano di gestione del rischio alluvioni è stato modificato nel novembre del 2023. Fabio Cella, vice direttore centrale dell'assessorato all'ambiente, perché è stata eliminata la traversa di Pinzano e invece quali opere sono previste adesso? La determinazione fatta in sede di progettazione proprio della traversa di Pinzano, finanziata dalla Regione nel 2022, ha evidenziato l'insufficienza della capacità di invaso di questa traversa, pur essendo una traversa mobile, a garantire la sicurezza idraulica dei territori vallivi. In ragione di queste verifiche, con l'autorità di distretto si sono effettuate ulteriore applicazione dei modelli che segnalano, con le piogge con tempo di ritorno di 100 anni, quali possono essere le quantità di acqua che possono transitare alla Tisana e Lignano e anche nella parte veneta, e si sono individuate due nuove opere, sempre una traversa mobile, non più a Pinzano ma sul ponte di Dignano, che in questo periodo è in fase di ristrutturazione da parte della regione per consentire un miglior transito stradale. A questo si affiancherebbe una traversa sempre di natura mobile che si attiverà solo con piogge con tempi di ritorno appunto di 100 anni e invaserà circa 30 milioni di metri cubi in quella zona. A queste si aggiunge un'ulteriore presa nella zona del ponte di Madrisio, quindi nel comune di Ronchis, che consentirà al corso d'acqua di andare a riprendere alcune zone di espansione naturale che storicamente ha invaso proprio anche nella malaugurata data del 1966 con la precedente alluvione. Queste sono le opere essenzialmente che il PGRA ha rideterminato. Quanto costeranno queste opere e ce ne sono anche altre necessarie? Tutte le opere complessivamente, a queste opere si affiancano altre opere che sembrano di dettaglio ma sono essenziali. La prima è il completamento di tutta la diaframmatura, cioè il rinforzo arginale nel tratto dalla Tisana sino a Lignano. Il complesso delle opere è stimato intorno ai 200 milioni di euro come costo complessivo. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una rotta commerciale tra Trieste e l'Egitto pronta a partire, presentato anche nel capoluogo di regione. L'accordo appena siglato al Cairo. Sentiamo. Si comincerà con una nave a settimana, con la speranza di passare presto a due. Il traffico lungo l'autostrada del mare tra l'Egitto e Trieste inizierà in autunno e trasporterà soprattutto camion di frutta e prodotti agricoli. Dopo l'accordo firmato al Cairo, la delegazione egiziana del porto di Damietta ha raggiunto Trieste per iniziare a definire i dettagli operativi. Sarà una corsia preferenziale per il commercio via nave, ma anche il primo passo per una nuova strategia industriale e produttiva che guarda il Mediterraneo. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino. È uno dei paesi, probabilmente il paese che è già pronto per questo tipo di logiche, la Turchia, mentre ci sono altri paesi, penso a Egitto e in seconda battuta Marocco, che potrebbero essere appunto paesi di grande sviluppo, di processi appunto di nearshoring, quindi di avvicinamento di queste catene lunghe dell'economia, e quindi ci prepariamo al mondo industriale tutta una serie di connessioni che potranno essere utili. L'operazione risulta ancora più importante se si considera l'instabilità delle rotte commerciali provocate dai disordini in Medio Oriente. Mettono in crisi il nostro sistema, ma secondo D'Agostino danneggeranno anche le economie di Cina e India. È chiaro che se poi gli scenari definitivi nel medio e lungo periodo sono quelli di un abbandono o anche parziale delle produzioni nel Far East, penso che prima o dopo anche chi sta oltre Suez dovrebbe cominciare a preoccuparsi della situazione. L'accordo con l'Egitto è una replica del modello Turchia, ma con un vantaggio in più per gli autotrasportatori italiani. Enrico Samer, presidente della Samer & Co. Shipping. Non parliamo di semplici navi traghetto, parliamo di navi autostrada del mare, quindi mezzi targati a bordo delle navi. Mentre la Turchia aveva una grossa flotta camionistica internazionale, qui ci troviamo in una situazione diversa. L'Egitto non ha una importante flotta di autotrasportatori, quindi c'è un vantaggio importante, grazie a questo bilaterale, grazie alla linea, per l'autotrasporto italiano, che può farle da padrona. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Inaugurata a Udine, in via Spalato, la nuova sezione carceraria della Semilibertà, primo passo di un progetto di rinnovamento del penitenziario. Sentiamo. Nella casa circondariale di Udine si inaugura il reparto semilibri. Chiediamo ad Angela Venezia, che è qui in rappresentanza della direzione penitenziaria per il Nord-Est, che cosa è per la precisione questa sezione nuova che si inaugura oggi. Oggi inauguriamo la sezione per i detenuti semiliberi, che sono quelle persone che hanno fatto un buon percorso trattamentale all'interno degli istituti penitenziari e hanno avuto la possibilità di sperimentarsi sul territorio con attività lavorativa. In questo modo noi lavoriamo perché il processo di rieducazione avvenga in maniera corretta e graduale e vengono accompagnati dall'area pedagogica, dal personale di polizia penitenziaria, dai volontari, da tutto il tessuto sociale a reintegrarsi in maniera corretta. Quanti posti mettete a disposizione e perché era necessaria questa nuova sezione? La sezione era necessaria perché intanto una sezione nuova è sempre piacevole e anche perché aumentiamo quindi la sua capienza. Oggi abbiamo 10 posti regolamentari, ma chiaramente parliamo di persone che entrano la sera dopo aver fatto una giornata di lavoro, aver coltivato i loro affetti, aver coltivato i loro interessi culturali eccetera, e riescono al mattino presto. Quindi diciamo che 10 posti sono regolamentari, ma noi speriamo che la magistratura dia questa misura con una maggiore frequenza, con una maggiore intensità, e siamo disponibili a riutilizzare anche i posti vecchi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: la polizia locale di Udine cerca ancora testimoni dell'incidente avvenuto nella serata di domenica nel capoluogo. Un ventenne era stato trovato a terra da un passante intorno alle 19.45 accanto al suo scooter sul cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato. L'uomo ha dato l'allarme. Non è chiaro che cosa sia avvenuto. Secondo le prime ipotesi, il giovane, che è attualmente ricoverato in prognosi riservata a Udine, potrebbe essere caduto tutto da solo. Chiunque abbia informazioni sull'incidente può contattare l'ufficio infortunistica della polizia locale allo 0432 1272 329. 1550 bottiglie di birra sequestrate in 3 supermercati del Friuli Occidentale da funzionari dell'ufficio delle dogane e finanzieri del comando provinciale di Pordenone nell'ambito dei controlli sul possesso delle licenze per vendita di prodotti alcolici. Le bottiglie sequestrate erano prive delle indicazioni obbligatorie per la vendita al pubblico. In un negozio di generi alimentari sono state trovate 551 bottiglie di birra offerte in vendita al pubblico nel formato di 355 millilitri anziché 33 centilitri, come previsto dalla legge. È stato poi accertato che mancavano informazioni obbligatorie circa la presenza di eventuali allergeni e i dati dell'operatore economico che importa il prodotto nell'Unione Europea. Altre 999 bottiglie con etichette irregolari e formati diversi da quelli consentiti sono state rinvenute in altri 2 negozi. Ai 3 supermercati multe dai 2 ai 24.000 euro. Domani si discuterà nel merito davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia il ricorso presentato da Lega Ambiente, dal comitato di cittadini contro l'abbattimento di una 50ina di tigli nel comprensorio dell'ex fiera di Pordenone, dove sorgerà il polo Young voluto dal comune. La difesa dei ricorrenti ha presentato al tribunale amministrativo un'istanza di espulsione dal fascicolo delle memorie depositate oltre la scadenza dei termini. La documentazione del comune, secondo le associazioni che sostengono il ricorso, è irricevibile perché presentata fuori tempo massimo. Un progetto lungo 4 anni finanziato dall'Europa per indagare e contrastare la cosiddetta violenza ostetrica, ovvero le forme di trattamento fisico e verbale non rispettoso verso le partorienti. A coordinarlo l'Università di Udine, che lo ha appena presentato. Essere sottoposte a procedure mediche, l'episiotomia per dirne una, senza consenso esplicito, umiliazioni verbali, impossibilità di accedere all'epidurale per dirne alcune. Oggi in regione, in Italia e in Europa non esistono strumenti per poter quantificare e monitorare la violenza ostetrica e di conseguenza non sono a disposizione dei decisori politici dati per poter pianificare interventi in materia. Colmare questa lacuna è l'obiettivo di una ricerca iniziata il 1 gennaio, della durata di 4 anni e coordinata dall'Ateneo Friulano, finanziata con quasi 600.000 euro dall'Unione Europea, coinvolti 19 istituzioni, 9 paesi europei e 39 esperti. Saranno attivati percorsi di formazione innovativi. A Barcellona, per esempio, attrici e attori porteranno in scena, a teatro, biografie reali. I partecipanti saranno i professionisti della salute, indica Patrizia Quattrocchi, docente di antropologia medica e responsabile scientifico del progetto. Questo aiuterà a porsi da un punto di vista differente per poter decostruire una serie di pratiche e di pensieri che abbiamo talmente naturalizzati e di cui non ci rendiamo conto. In un momento in cui si discute tanto di denatalità, poco si parla del trauma dopo il primo parto che fa decidere a molte mamme di non avere più figli. Incide moltissimo. Il dato italiano ci mostra che differenti donne, 6 su 10, pensano un pochino di più a un secondo figlio dopo una nascita vissuta in maniera problematica, afferma Quattrocchi. Proposto un modello assistenziale diverso, fuori, per quanto possibile, dai reparti ostetrici tradizionali, perché l'ospedale dovrebbe essere il luogo dell'emergenza e il parto non dovrebbe essere un evento traumatico, ma fisiologico. Non importa dove si partorisca, in ospedale, in una casa maternità, addirittura a domicilio, conclude Quattrocchi. L'importante è poter essere rispettate e poter avere un'assistenza adeguata alle proprie necessità e ai propri bisogni, che sono anche di natura emozionale, psicologica ed esperienziale in senso ampio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Pordenone 8 gradi e mezzo, a Udine 8, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 3 e mezzo, a Tarvisio 2 gradi, a Sappada meno 2, sul Piancavallo 6 gradi e mezzo, sul Lussari 5 decimi di grado sopra lo zero, sul Monte Zoncolan 1 grado, sulla costa Grado 8 gradi, Lignano 5,5. E l'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Più di 100 studenti coinvolti per una iniziativa di preservazione della memoria delle vittime del nazifascismo, culminata con la posa di alcune pietre d'inciampo a Pordenone. Sono le ragazze e i ragazzi del liceo Leopardi Maiorana i protagonisti della posa delle pietre d'inciampo a Pordenone. 54 blocchetti sinora posati in città e nei comuni limitrofi in memoria di altrettanti deportati vittime del nazifascismo. Rossana Viola è dirigente del liceo Leopardi Maiorana. Il progetto in questi anni ha coinvolto più di un centinaio di studenti, moltissimi docenti, e la collaborazione si è allargata in questi anni a molti comuni del pordenonese e anche ad altre scuole. Sin dall'inizio hanno collaborato l'amministrazione comunale di Pordenone, l'ANPI, l'ANED di Pordenone e il Circolo della Stampa. Questa mattina sono stati ricordati Antonio Lionello Rossi in via Molinari e Umberto Perissinotto in vicolo Molinari. Io ho studiato la storia di Umberto Perissinotto, mi ha fatto molto piacere studiare in particolare la storia di lui proprio perché le notizie sono poche e quindi è stato interessante anche consultare i vari articoli e i vari archivi di Stato. In via Stradella la pietra d'inciampo in memoria di Olivo Reposi Muzzin, alla presenza dei parenti. Non è stata recuperata la sua salma e quindi oggi possiamo dire che questa che noi andiamo a presentare potrebbe essere una degna appunto sepoltura nei suoi confronti e di tutto quello che ha passato, anche perché è stato rinchiuso in ben 3 campi di concentramento diversi e aveva solamente 20 anni. È un'emozione grandissima perché veramente questa pietra l'ha portato mio zio, l'ha portato a casa. Non è solo la memoria della mia famiglia, che io capisco essere una memoria collettiva che ci possa anche guidare rispetto a situazioni contemporanee. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione del giorno della memoria, oggi alle 18.30 al Circolo Fotografico Triestino di via Zovenzoni 4 si inaugura la mostra fotografica 1933-1945 Lager Europa, viaggio nel sistema concentrazionario nazifascista. Un documentario costruito dal fotografo Francesco Pinzi e dalla moglie Ilde Bottoli, scrittrice storica, entrambi di Cremona. L'esposizione sarà presentata da Tristano Matta, presidente dell'IRS Friuli Venezia Giulia, che con l'adesione del Circolo della Stampa di Trieste propone la mostra. Esposta una selezione delle 700 immagini raccolte in un libro del 2021, portato in sedi istituzionali italiane nelle scuole e in varie città europee italiane. La Costituzione e diritti fondamentali patrimonio di democrazia e libertà, quali ripercussioni potrebbe avere su di essa la modifica per l'introduzione del premierato? Ne parlerà in una conferenza organizzata dall'ANPI di Udine e dall'Università della Terza Età Paolo Naliato alle 17 nell'Aula Magna di Palermo Roberta Nunin, docente di giurisprudenza dell'Università di Trieste. Sentiamo. È un incontro che è dedicato ad approfondire il tema del rilievo dei principi fondamentali nella Costituzione italiana. La nostra Costituzione dedica uno spazio importante ed ampio alla tutela dei diritti, quindi fare un po' il punto sull'attualità di questo intervento regolativo a distanza di tanti anni e sul fatto che appunto si tratta di una regolamentazione ancora importantissima, estremamente attuale, è un po' l'obiettivo. Quindi spiegare un po' come alcune norme sono nate, la genesi che hanno avuto nella formazione della Costituzione e quella che è la loro permanente rilevanza. E poi si parla anche di questa ipotesi di riforma di introduzione del premierato? Vedremo anche da come andrà avanti il dibattito, se ci sarà tempo e spazio di esaminare quelle che sono le caratteristiche di un progetto di riforma che ovviamente è ancora nelle fasi assolutamente iniziali, di cui si è dibattuto, si è letto qualcosa anche sulla stampa, quindi immagino che ci sarà anche del tempo per dedicare una qualche attenzione ad alcuni aspetti del progetto di riforma. Soprattutto dal mio punto di vista meritano attenzione e riflessione quelli che intervengono sull'equilibrio tra i poteri, sul bilanciamento tra i diversi poteri dello Stato, perché la Costituzione nasce anche da una riflessione estremamente importante sulla costruzione di un equilibrio tra poteri, che è un equilibrio delicatissimo, e quindi è chiaro che interventi che vanno a modificare l'equilibrio tra i vari poteri che sono coinvolti nella gestione dello Stato è qualcosa da guardare con estrema attenzione, magari anche con un pizzico di preoccupazione, ma cercando di vedere quali possono essere eventualmente i punti critici, ciò che preoccupa e dei punti su cui è bene che i cittadini si creino delle opinioni, approfondiscano e magari inizino anche a discutere. Alcuni appuntamenti. Giorgio Fabre, studioso di storia politica del Novecento, presenta il Gran Consiglio contro gli ebrei, 6-7 ottobre 1938, Mussolini, Balbo e il regime. Alle 17.30 al Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo e Vera Wagner, in Via del Monte. Alle 18 nella biblioteca di Monfalcone Alessandro Turrini presenterà il libro Breve Storia dei sommergibilisti italiani a cura dell'Associazione Marinai d'Italia. E per Trieste Incroci Letterali, viaggio nell'anima multiculturale della città, la libreria Ubic di Trieste alle 18, lettura teatrale Sangue impuro di Boris Stankovic. Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa di Gigi Riva. Sentiamo un ricordo dell'ex attaccante del Cagliari e della Nazionale dal friulano Dino Zoff, collega sul campo e amico nella vita. Eravamo convinti che fosse l'uomo in più, ecco, e quindi senza la presenza era già un di più, ecco. C'è stata un'amicizia, anche se la frequentazione non è stata molto intensa, in quanto lui era sempre in Sardegna e io dall'altra parte, quindi però il rispetto e l'amicizia e il piacere è sempre stata presente. È arrivata la persona, la chiarezza delle cose, pur non essendo così tutti e due molto espansivi, però era un rapporto proprio di parola, di certezza, di sicurezza, di sapere con chi hai a che fare. E quindi direi sotto questo aspetto era veramente stato piacevole quel periodo. Mi lascia un voto soprattutto, non dico come giocatore, i numeri sono chiari, ecco, ma come persona è saggia, posata, forte. E quindi direi che questo, l'atleta sotto tutti gli aspetti, realistico sul campo, insomma, senza sceneggiate, insomma, no, cioè, veramente dovrebbe far scuola, insomma, che vedo che invece il mondo è strano. E adesso parliamo invece di una storia che arriva da Cividale e parte da Cividale e arriva alle manovre navali nel Pacifico, il percorso del capitano di vascello Milo Sargenton, comandante della portaerei Cavour, l'unità maggiore della nostra marina. Lo abbiamo incontrato a Buongiorno Regione, l'intervista è di Antonio Caiazza. Comandante Argenton, ci dà qualche numero di questa nave che è la più grande della Marina italiana? Quanti uomini, quante tonnellate? Questa è la nave ammiraglia della Marina italiana, è una nave lunga 240 metri che pesa 27.000 tonnellate, ha un equipaggio di circa 500 persone, ma può arrivare a ospitare fino a quasi 1.200 persone. A bordo ha un ponte di volo che in parte vedete alle mie spalle, che è grande quanto un campo da calcio. Lei è un friulano di Cividale. Come nasce la passione per il mare in un friulano di Cividale? Che posto aveva il mare nella sua vita da ragazzo? A parte i bellissimi ricordi che ho sulle spiagge di Grado e Lignano quando ero ragazzo, per me ha sempre avuto un posto fondamentale, e soprattutto il fatto di viaggiare avendo una famiglia in parte friulana, in parte proveniente dalla Francia, quindi ho viaggiato fin da piccolo per andare a trovare i miei parenti e i miei nonni, e quindi diciamo ho ritrovato questo viaggiare nella professione che ho svolto negli ultimi 27 anni della mia vita in maniera estremamente consistente. Che legame conserva con Cividale, con la sua terra? Beh, ho un grande affetto ed è avendo viaggiato, avendo lavorato in Italia in diverse basi, in diverse sedi, e avendo viaggiato molto nel mondo, devo dire che rimane sempre un angolo felice di terra in una regione a me particolarmente cara, quindi la ricordo con affetto. Purtroppo il mio lavoro mi porta ben poco a Cividale. E confesso di non essere mai stato a Trieste con una nave della Marina Militare. Sono stato in Pacifico, ma non sono mai stato a Trieste. Quindi l'aspettiamo a Trieste con la Cavour. Me lo auguro. Antonio Caiazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora sentiamo quali sono i risultati in termini di visualizzazioni del nostro sito web, sempre consultabile alla pagina rainews.it/tgr/fvg. Quasi 123 milioni di accessi ai siti delle 24 redazioni regionali della TGR nel 2023, il doppio rispetto al 2022. Poco meno di 191 milioni di contenuti visti nello stesso arco temporale, con un incremento del 76%. 50 milioni di video visualizzati, più 59%, nel raffronto con il 2022. Sono i numeri fondamentali dei siti della testata giornalistica regionale della RAI. Soffermandoci sui dati del sito della redazione italiana del Friuli Venezia Giulia, si evidenzia un balzo negli accessi, quasi 7 milioni nel 2023, con un incremento che supera il 500% rispetto al 2022. I contenuti visti dagli utenti sono stati 9.785.000, l'aumento sfiora il 60%. C'è anche un salto nella fruizione dei video, che hanno raggiunto quota 2.100.000, più 225% sull'anno precedente. Tra le notizie più viste del sito della TGR Friuli Venezia Giulia nel 2023, il possibile nesso causale tra la vaccinazione AstraZeneca e l'ischemia che ha colpito una donna, l'ondata di maltempo che a luglio ha investito il Friuli Venezia Giulia, e la vicenda dell'uomo barricato nella sua abitazione a Cordovado per oltre 2 giorni. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Paolo Cassano ed Eugenio Giuffride. In segreteria ha collaborato Daniela Sossi, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.